30 metri che scambio il pulsante e fa la grande. Ok, sto usando adesso il 574 per la Midland, la stazione base con il microfono amplificato e tutto lì. E niente, io, il prossimo acquisto è un microfono della Salenza, sto cercando un microfono degli anni 80 Salenza, che quello lì mi manca alla collezione. Se lo trovo volentieri lo acquisto, sto guardando anche su internet. Hai capito, perché un signor microfono, se voglio vado e me lo regalano pure, perché questi non modulano più, c'hanno anche, se vado a me mi voglio come un dio seri, quindi, però non li voglio più fare perché, anzi voglio che lo attacchino il baracchino perché, come i vecchi tempi, perché mi sono informato e ci diamo le stazioni, mi hanno mandato i saluti l'altro giorno, e diciamo questo microfono che io all'epoca non l'ho comprato, lo sai perché? Perché ero sempre affascinato dei Turner, il microfono per me era il Turner, all'epoca LSPE che ci dio, hai capito, però il Salenza si sposava bene con gli inuiti, ecco, a fare che ho preso tre canali e ti dico che è andato alla grande, non lo so, la Safari, ma sono sicuro che non è troppo. Un po' difficile già, adesso il microfono se lo più. Pappa, chi c'è già? Guarda, l'unico lo puoi trovare, forse da Walter, ma non te lo dà, No, ma non mi permetto, perché Walter è di colleziona, non mi permetto, almeno che uno non ha un doppione di una cosa, se ne disfa, cioè, non mi permetterei mai di chiederlo a una persona che colleziona, ci mancherebbe. Io per Ricom ho comprato, come si chiama, gli ho pagato lo prezzo di nuovo, cioè il microfono di buone condizioni, l'SM20, pur di non ordinarlo, perché ho detto se lo ordino il microfono che è nuovo, ora sì che non ha le caratteristiche come un tempo, preferisco comprarlo usato che in buonissime condizioni, però hai capito, sono sicuro che dell'epoca che si trova parecchio, perché poi si mettono a farli i microfoni e hai capito, non sono più come quelli di una volta, perché anche di Turner, quello che c'era a Salino non è preciso a quello che è preciso, la carcassa però dentro cambia il circuito, quello che c'ho io è uno dei migliori microfoni, anche l'altro, il più 3, mi aveva detto Claudio che il migliore è quello con acqua marina, e io ho quello lì, hai capito, perché poi li hanno fatti, fanno, hai capito, andando le cose e facendole meno buone, con questi vanno alla grande, lo vorranno controllati, ripeto, perché sono rimasti fermi, come questi li ho, capito, giusto per averli, perché non è che posso attaccare tutti i microfoni, però è lì sullo scaffale, lo vedi, sì, sono anche tutti i vecchi tipo elettronica, le cose che ti portano un po' indietro nel tempo, poi, come dico sempre, in frequenza, non so se i miei figli qualche giorno, che non ci sono più, chiameranno un camion e ci buttano via tutto. Si conferma, beh. No, vero che sei proprio appassionato di cose vecchie, dai. Vabbè. Vediamo un po' se riesco. Mamma mia, non mi attacca lo stagno, mo. Mannaggia, come faccio, mo? Bel casino, non mi attacca lo stagno. E poi c'ho anche la pasta salda. E mo come faccio? Luca, se il filo non lo tagli nella pasta salda, lo stagno non lo attacca mai, a meno che lo stagno non sia, se ce ne dà molto che non serva più. Io quando salto il filo lo taglio nella pasta salda e poi metto lo stagno e attacca alla grande, dà anche fastidio di saldarlo poi. Ma così ho fatto, ma non attacca. Sono quei fili maledetti come si chiama? Delle cuffie. Non va. No, lo stagno è nuovo, l'ho preso da poco, che cazzo, gli pago 2 euro, un rotolo piccolino, no, nine, non va, no, lo so, lo stagno è buono, vedi, Sì, lo so, ma non vedo proprio i tuoi fili, come stai dicendo tu, però che da fastidio, tipo quelli delle volte della calza, non so se stai attaccando quelli, e molte volte se se non le fa come si chiama a lui prima, capito? E da fastidio attaccare. Sono quelli brutti, mamma mia, che sono da, diciamo, da bruciare, dai, un po'. Sono attacca proprio, adesso vediamo un po' se riesco, aspetta già. Fai fire con i tuoi ricchi.